Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Dai microfoni di Blu Radio Veneto, ennesima puntata, ci sono ancora io ai microfoni, Christian, per raccontarvi il mondo esaltante, vivace e simpatico dei nostri circoli oratori padronati, targati Noi Associazione. Bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto, l'emittente interdiocesana, appunto, che ogni settimana, il sabato alle ore 14, domenica alle 12.30, con la consulenza e la professionalità anche della regia di Eddie Dai, ci manda in onda questa trasmissione. È da anni, appunto, che cerchiamo di raccontare il mondo dei circoli oratori padronati, perché sappiamo che è un mondo in fermento, perché sta appunto producendo nuove attività, sempre più circoli aderiscono alla realtà di Noi Associazione. Proprio qualche settimana fa eravamo tutti riuniti a livello nazionale in assemblea a Verona Fiere ed è stato eletto il nuovo consiglio nazionale, tra cui appunto anche il nuovo presidente. Succede appunto a Don Sandro Stefani di Padova, Don Marco Saiani di Noi Trento, a cui appunto auguriamo un buon lavoro e che presto avremo ai microfoni proprio di Fuori di Noi per raccontare un po' la sua esperienza. Prima era presidente, lo è ancora ovviamente, presidente di Noi Trento, e adesso invece avrà non soltanto la responsabilità parziale di un territorio e quindi di un gruppo di circoli, ma la responsabilità nazionale di portare il Noi Associazione dopo 10 anni a raggiungere altri traguardi e ovviamente a soddisfare anche tante aspettative e tante esigenze che queste realtà stanno continuamente, diciamo, indicando ai vari riferimenti territoriali. Quindi tanti auguri, ripeto ancora, al nuovo presidente, al neo presidente di Noi Associazione, Don Marco Saiani di Trento. Ci sarà appunto anche un nuovo consiglio, si stanno appunto in queste settimane anche ridistribuendo vari incarichi, quindi avremo modo magari di contattare anche i nuovi consiglieri nazionali che avranno il compito di sviluppare nuovi settori che l'associazione dopo 10 anni non aveva ancora, diciamo, approfondito, e magari lanciare nuove sfide. Noi Associazione è una realtà che oggi conta, è distribuita in tantissime regioni, in tantissime province, e conta appunto più di 1300 realtà sparse in tutto il territorio, più di 250-270.000 tesserati, ma i numeri, diciamo, possono indicare soprattutto che è una realtà in buona salute, ma non indicano e non presentano a sufficienza che oggi, e questo lo diciamo per certo, l'oratorio ha ancora senso. Un ambiente appunto all'interno della comunità parrocchiale che fa da punto di riferimento per attività, per valorizzare il tempo libero, per mettere anche in collaborazione tutti i gruppi presenti all'interno della parrocchia. Quindi l'azione cattolica confluisce all'interno dell'ambiente oratoriale per, diciamo, le proprie attività, per creare appunto un ambiente accogliente, una comunità accogliente, e la famosa parola appunto che si unisce a comunità ultimamente ed è fondamentale, una comunità educante, cioè un gruppo di persone che pur nelle differenti metodologie, nei differenti carismi, cercano di educare il giovane e anche l'adulto nella dimensione più completa che possiamo indicare per quanto riguarda la persona umana, quindi sia dal punto di vista coltivando, diciamo, il punto di vista spirituale, che il punto di vista del gioco, delle relazioni, della professionalità, di tutte, diciamo, quelle componenti che fanno di un uomo completo. Una comunità quindi è anche una realtà che guarda il passato ma è spinta verso il futuro, cioè Noi Associazioni in questi ultimi anni sta investendo moltissimo del proprio tempo, delle proprie risorse economiche per stare al passo con i tempi, e una delle, diciamo, risposte che darà appunto nel 2012 è il procedimento del tesseramento online. Per qualcuno potrà essere una poca cosa, ma anche questo può aiutare i volontari, perché tutte le persone che operano all'interno dei circolatori danno del proprio tempo gratuitamente, ma c'è anche da rispettare regolamenti, normative, e anche quindi prevedere appunto la pratica del tesseramento, cioè tutte le persone che frequentano questi ambienti hanno bisogno di una tessera. Questa tessera appunto aveva un procedimento fino all'anno scorso un po' complicato, che dava dei problemi perché bisognava appunto installare un programma nel computer. Il computer, sapete che tante volte può provocare possono capitare degli errori di compatibilità con aggiornamenti, eccetera. da quest'anno è stata risolta, diciamo, anche questa difficoltà. Si passerà quest'anno il procedimento online, cioè consiste nella possibilità per tutti i circoli facenti parte noi associazione della gestione del tesseramento associativo da qualsiasi computer, basta appunto che abbia un collegamento ad internet. Cosa farà quindi il volontario, l'incaricato che deve fare il tesseramento di 10, 15, 20, 100 soci? Basta appunto, senza scaricare nessun programma, basta che si colleghi via appunto internet al sito www.noigest.it ed entrare nell'area personale. Quindi questo garantirà tre cose fondamentalmente: la praticità, la sicurezza dei dati che verranno trasferiti e anche l'agilità nel raccogliere dati e produrre quindi anche la tessera. La tessera è non soltanto per quanto riguarda noi associazione il, come posso dire, il, la possibilità appunto di entrare a far parte di un oratorio, di una realtà, ma è anche, diciamo, il fondamento per cui un oratorio può essere gestito in questa maniera e non in un'altra. Ricordiamo che tutti i circoli noi sono delle APS, delle associazioni di promozione sociale, che possono appunto produrre e collaborare con enti amministrativi, con regione e provincia per realizzare dei progetti comuni. Questo solo perché appunto prima ci siano dei c'è a fondamento di questo un tesseramento. Questo è molto importante per la nostra realtà. Ma adesso, dopo aver fatto questa grande introduzione, passiamo al primo momento musicale. Dedico a tutti i nostri radioascoltatori, giovani, adulti e anziani, il grande Adriano Celentano con Non ti accorgevi di me, nuovo singolo. Non è poi stato certo facile tornare qui da te. Avrei voluto scappare lontano, ma molto lontano, e non chiederti se l'ultima volta che hai rubato il giorno al mondo era per me, o forse non ero a corrente che il tempo a quel tempo correva anche per lui. Non ti accorgevi di me se poi mi lasciavo cadere, non mi accorgevo di te che mai mi venivi a salvare. Accorgevi di me se poi ti venivo a cercare, non mi accorgevo di te che mai eri pronta ad amare. Non ti curavi di me perché già sapevi che io, se mi curavo di te, a farmi male eri ancora tu. Ecco, son pronto a sapere parlare, proprio adesso che voglio soltanto morire. Su quelle tue labbra c'è ancora posto per me, e come d'incanto dimentico tutto, anche un bacio per tre. Ora ti accorgi di me. E Adriano Celentano cantava Non ti accorgevi di me. Invece uno degli obiettivi, uno delle finalità degli oratori è proprio quello di accorgersi anche e soprattutto delle persone che non frequentano appunto la comunità magari parrocchiale, i gruppi, e magari coinvolgerli in qualche bella attività senza, diciamo, tanto impegno, dando semplicemente o meglio offrendo del tempo libero e magari passando qualche ora piacevole e facendo appunto incontrare delle persone. Forse questo è uno degli obiettivi. Bene, andiamo però appunto nel cuore della trasmissione. La settimana scorsa, se vi ricordate, abbiamo incontrato, intervistato per la prima volta in assoluto la realtà di Trieste, Noi Trieste, con Don Alessandro, e questa settimana abbiamo un altro, diciamo, responsabile, diciamo, importante, cioè di un comitato territoriale veneto, ed è la realtà di Vicenza. Vediamo se è in linea. Don Matteo, ci sei? Sì, ci sono, eccolo qua. Perfetto, forte, ciao Don Matteo. Ciao, intanto, ciao. Ecco, noi Vicenza l'abbiamo incontrata, diciamo, negli anni appunto di questa trasmissione con il tuo predecessore che era Don Gianantonio Urbani. Sì, sì, sì. E quindi l'abbiamo già sentita, però adesso abbiamo un nuovo presidente territoriale, quindi presentati un attimino. Don Matteo, tu sei? Sì, allora, Don Matteo Giordanello, sono dallo scorso anno incaricato dal Vescovo di seguire anche la realtà della nuova associazione, e quindi le ultime elezioni in aprile sono stato eletto presidente territoriale della nuova associazione. Cosa dire, sono anno di nascita 1972, quindi fate un po' voi i conti. Quindi sei 2 anni più giovane di me. Eccolo, vedi. Bene, ecco. E quindi sono parte però dal 97, quindi 14 anni, e che ho vissuto qui nel Vicentino, in parrocchia a Braganze, per 5 anni, 4 anni a Lonigo, 4 a Chiampo, e poi adesso qui appunto in diocesi, in questo servizio per la nuova associazione, e poi sono anche assistente diocesano della CR. Quindi... Ah, perfetto, quindi nella sola persona abbiamo sia il noi che anche il settore, diciamo, più giovane dell'azione, sì, cattolica. Esattamente, esattamente. E questa, diciamo, è già qualcosa di molto positivo, perché quindi già penso appunto alle varie magari collaborazioni che tu potresti appunto stimolare, incentivare con tra azione cattolica e noi. Certo. E quindi già una cosa positivissima, perché qualcuno pensa, mentre appunto in questi anni abbiamo visitato tanti circoli, ci sono in certe realtà delle difficoltà a far inserire, per esempio, non so, l'azione cattolica all'interno del noi, o meglio che il noi possa magari collaborare con l'azione cattolica per delle attività. Invece abbiamo visto, per fortuna, che per la maggior parte dei casi questo binomio deve ed è fortissimo, perché è fondamentale. I ragazzi sono sempre questi all'interno della comunità, quindi sarebbe un'assurdità che certi, diciamo, campanilismi si formassero all'interno di una parrocchia. Domanda, facciamo anche un po', diciamo, una piccola scheda di noi Vicenza. Quanti circoli oratori sono presenti, diciamo, all'interno del tuo della tua diocesi? Sì, allora, come noi associazione sono 110 quest'anno i circoli appunto affiliati alla noi associazione, è una bella realtà. C'è qualche, con l'occasione del rinnovo degli statuti, c'è stato qualche circolo che era piccolo, in difficoltà, che ha scelto di chiudere, ma ce ne sono sempre di nuovi che si aggiungono, quindi è una realtà in movimento e ottima. 110, due di nuovi già quest'anno, e già altri circoli che stanno per nascere già per l'anno prossimo, quindi sono soddisfatto, insomma, anche dei numeri. Insomma. Molto bene, sì, perché tante volte i numeri sono, diciamo, anche un resoconto un po' arido, ma danno secondo me l'idea, ed è importante appunto citare i numeri. Di solito noi appunto quando abbiamo un comitato territoriale, abbiamo un presidente, vogliamo i numeri anche per dire appunto che ancora oggi, ed è la domanda che ti sto per fare, forse ha ancora senso e ha ancora valore parlare di oratorio e investire tempo e risorse per far crescere, diciamo, la realtà oratoriale. Sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo, anzi proprio direi, no, che per lanciare un esempio, per le tante cose che potremmo dire, e noi nelle nostre parrocchie, o realtà appunto, no, parrocchiali, giustamente diamo molto spazio, ripeto, ed è giusto che sia così, anche alle attività formative, quindi l'azione cattolica, la GESCI, il catechismo, eccetera, no? E spesso, ecco, no, dimenticheremmo altrimenti una parte ugualmente importante, che è quella del tempo libero, che non è un tempo libero, vuol dire, no, inutile, o comunque, no, tempo perso. Perso, esattamente. È un tempo invece utilissimo. Faccio solo un esempio, tanto per dire, no? Citando San Giovanni Bosco, ad esempio, lui stesso nei suoi scritti dice che i ragazzi, no, nei suoi oratori, tu li conosci, certo li segui nel primo momento della preghiera, nello studio, però diceva è nel cortile che tu li conosci veramente, e dove è importante la presenza dell'educatore, eccetera, eccetera. Allora mi piace pensare all'oratorio come il cortile della parrocchia, no? Quindi ci sono le attività formative, liturgiche, eccetera. L'oratorio è proprio nello spazio del cortile, dove si può giocare, si può stare insieme, dove ci sono le relazioni interpersonali, dove si libera del tempo. I nostri ragazzi, anche i più giovani, no, se siete d'accordo, spesso mi viene da pensare che non hanno più tempo libero. cioè la scuola, il corso di musica, lo sport, certo. Sembrano quasi che siano già stressati con gli orari, no, fissi, già fin da bambini. E allora avere invece la possibilità di avere del tempo liberato, ecco, no, nell'oratorio, io credo sia una risorsa non trascurabile. Per cui oggi più che mai l'oratorio non solo è necessario proprio, no, ma è anche proprio indispensabile, direi. Ecco, tu mi fai appunto, mi lanci un appoggio che è quello di San Giovanni Bosco, nel senso appunto che noi ovviamente come oratori ci riferiamo ovviamente all'antico oratorio, appunto quello fondato dal fondatore appunto dei Salesiani. Sì. Io poi sono anche un ex allievo salesiano, okay, quindi allora, mi ricordo tutto bene, quando parli di San Giovanni Bosco mi ritorno in mente tante cose. C'è una differenza appunto tra il nostro oratorio e gli oratori noi, che ed è questa anche una riflessione che vorrei fare con te. Sì. Gli oratori appunto dei Salesiani sono ovviamente prevalentemente indirizzati alla fascia giovane. Noi abbiamo il noi fa, diciamo, a una sfida ancora più forse sì, impegnativa, sì, che è quello di mettere insieme appunto giovani, adulti e anziani in uno stesso ambiente. E come sì, hai detto tu, un tempo che ci dedichiamo tra un po' tra generazioni. Allora ti chiedo, di fronte ai tuoi 110 circoli che avrai modo, penso, o stai già appunto conoscendo, sì, perché diciamo, è una bella realtà, ma sono tanti. Sì. Tu vedi che questa sfida si sta concretizzando o è ancora, diciamo, un'utopia mettere insieme tutte queste tre generazioni, quindi soprattutto oggi in cui ci sono, non so, adulti, anziani che hanno, diciamo, determinate aspettative, bisogni, i giovani che ne hanno completamente sì, altre, il linguaggio addirittura sì, è cambiato, certo, il modo di rapportarsi, quindi vedi che ci sono all'interno delle tue realtà delle escamotage, degli strumenti che invece mettono insieme magari per due o tre ore, magari la domenica, il sabato, queste generazioni così apparentemente lontane tra di loro. Sì, sì, ecco, è una sfida appunto questa, no, delle multigenerazioni che la nuova associazione mette in campo. Se guardo i miei circoli appunto dove sto girando anche adesso, no, il mio impegno ad esempio di quest'anno è proprio quello di andare un po' da tutti, sono 110, ho fatto il conto, vuol dire che ogni tre giorni devo andare da un anno da uno, beh, insomma, certo, comunque ci proviamo, no? Certo. Però ci sono delle realtà anche molto differenti, ci sono alcuni circoli che si caratterizzano per una sostanziale suddivisione, cioè, ad esempio a Chiampo, dove ero prima io sì, anche in parrocchia, ci sono due circoli noi, uno con i giovani in un centro e dall'altra parte il centro anziani con gli anziani, quindi ci sono anche delle realtà dove in realtà no, i due circoli sono separati, ma probabilmente più sono, senza probabilmente, più per motivi di gestione, perché poi dopo ci sono attività che si fanno insieme, dalla festa di a Natale con la Befana, alcuni appuntamenti dove no, allora i ragazzi si fanno presenti con i giochi e gli anziani magari invece offrono certo, la cioccolata, preparano, quindi è possibile questa collaborazione. In altre realtà vedo che invece può funzionare questo, ci sono delle figure anche, no, di adulti o di anziani che diventano di riferimento anche per i più giovani e non c'è questa, quella conflittualità cosiddetta che si penserebbe. Ci sono alcune realtà dove invece magari questo piccolo scontro è in atto, magari, no, per incomprensioni reciproche, no, dove magari ho in mente un paio di circoli dove magari gli anziani, no, giustamente hanno in mente un po' più la storia del circolo, il rispetto delle regole, e i più giovani che talvolta sono un po' più garibaldini e vorrebbero, no, sì, assolutamente, ecco, no, sì. E allora, ecco, ogni tanto allora viene interpellato anche il presidente per ecco, far dialogare queste due parti, però ecco, vedo che il confronto è possibile e nella maggior parte anche dei circoli si realizza proprio nella semplicità della vita quotidiana. E non bisogna assolutamente spaventarselo, diciamo, non soltanto alla realtà di Vicenza, ma a tutti noi, che appunto queste, diciamo, collaborazioni, sinergie, questi incontri tante volte appunto vengono bene, qualche altra volta ci sono delle difficoltà, ma la sfida sta proprio in questo: se riusciamo a realizzarla, allora avremo, diciamo, un potenziale, ed è quello che in noi l'associazione vorrebbe, che è veramente senza confini e non soltanto senza tempo, ma proprio avrà uno slancio, diciamo, anche per tutte le altre attività della comunità. Allora si diventa, come dicono appunto adesso ripetutamente, la parrocchia, una comunità che educa l'incontro senza, ripeto, far divisioni o a compartimenti stagni. E Don Matteo, ti chiedo un'altra cosa. Sì. Immagino, so che avete già presentato, diciamo, l'anno sociale 2012. Sì. Sappiamo appunto che quest'anno sarà un anno particolare, lo vediamo anche dalla tessera, che scrive, che su cui appunto è scritto 10 anni insieme, i primi 10 anni di noi, avete pensato come territoriale di fare, so che siete molto bravi a fare le feste territoriali, prima cosa perché riceviamo anche noi a Treviso, eccetera, l'email con tutte le feste che fate, quindi so che è una cosa collaudata e avete anche una certa originalità nel presentarla, ma voi come realtà territoriale, tu appunto che sei arrivato, hai visto che c'è qualche settore che sicuramente quest'anno dovrà essere maggiormente approfondito, sviluppato, impegnato, avete già qualche progetto in cantiere per l'anno prossimo? Sì, allora ovviamente l'appuntamento del decennale, no, è importante, c'è un po', è un po' un crinale, no? I primi 10 anni sono quelli dove io credo, no, si nasce, ci si organizza, si sperimenta e da qui in poi, ecco, si tratta di crescere proprio non solo numericamente ma proprio anche come struttura, come storia, quindi è un anno importante. Noi come territoriale, ecco, no, abbiamo pensato, fra le tante cose abbiamo pensato questa, beh certo, la festa dell'associazione che noi facciamo ogni anno a settembre, che sono sempre, no, occasioni che cerchiamo di inventare ogni volta nuove, sarà una grande festa. Con l'occasione dei 10 anni, una festa che impronteremo sicuramente sul dialogo. Abbiamo visto anche l'ultimo appuntamento che abbiamo fatto di festa dell'associazione, dove far dialogare i responsabili ai lavori di gruppo, sarebbe voluto una giornata intera da dedicare, perché venivano fuori bello un sacco di cose, la necessità di provocazioni dialogare. Di cose. E allora probabilmente, anzi sarà così, insomma, non sarà l'occasione di fare festa, quindi nel senso proprio pieno del termine, ma anche possibilità di confronto. Quindi quello sarà a settembre sicuramente per noi, ma in più, oltre a questo, abbiamo pensato di realizzare una provocazione del genere, no? Fra le tante cose abbiamo visto che in parecchi oratori da noi ci sono anche ragazzi che suonano, ci sono gruppi, sale prove, eccetera. Certo, certo. E allora abbiamo provato a coinvolgere, stiamo allargando proprio gli orizzonti, i ragazzi che suonano negli oratori, a proporre una canzone nuova fatta da loro, una sorta, no, di concorso musicale che parli di noi giovani e che guardi con speranza al futuro. Ne abbiamo già raccolte 6, altre stanno arrivando e in questi prossimi mesi andremo proprio a registrarli in uno studio di registrazione e verrà fuori, ecco, no, un CD, un disco che si intitolerà Parliamo di noi, ecco, no, di noi più giovani, sì. E sarà proprio, no, un dare voce alle nostre parti più giovani, ai giovani che suonano nei gruppi, perché abbiamo visto che spesso, no, in questi gruppi ci sono anche ragazzi che non frequentano in parrocchia, non vengono ai gruppi. Quindi ad esprimere la loro creatività, la loro fantasia attraverso la musica, attraverso che è un linguaggio universale che potrebbe raggiungere sia certamente i giovani ma anche gli adulti e anche magari gli anziani, perché appunto si fermano sempre con piacere magari ad ascoltare una buona canzone. Ti chiedo una cosa, ecco, la chiediamo un po' adesso a tutti quanti quelli che cerchiamo di intervistare, responsabili eccetera, se tu in questa tua esperienza, se dovessi descrivere appunto il mondo oratoriale, l'oratorio in sé con un oggetto, quale sceglieresti? Esatto, cioè, sai che oggetto a me cosa hai scelto, Domantea? Sentiamo. La corda, hai presente la corda, quella che si usa per legare le navi o per fare il tiro alla fune? Sì, sì. Che è una corda, no, quindi grossa, robusta, bella nodosa, ma è fatta tutta di altre piccole cordicelle, no, legate insieme. Sì. E allora, no, a me piace l'oratorio in questo senso qua, nel senso che l'oratorio non è il luogo dove si diventa tutti piatti, tutti la stessa cosa, ma ognuno ha le proprie caratteristiche. Allora dentro l'oratorio ci sono gli adulti, gli anziani, c'è magari il bar, ci sono l'azione cattolica, ragazzi giovanissimi, gli scout, quindi ognuno ha la propria specificità, però in questo ambiente, no, trova la possibilità di annodarsi insieme. Allora questi piccoli fili diventano poi insieme una corda grossa che può trainare un carico notevole, no? Benissimo. A me piace questa immagine, bella. Così, insomma. Bella, allora, come abbiamo fatto appunto attraverso i microfoni di Blu Radio Veneto con Don Alessandro la settimana scorsa di Noi Trieste, sì. E la promessa appunto che tu in qualche maniera ci hai già garantito, ma lo sentiamo appunto adesso anche attraverso la tua voce, è questa: siamo in avvento e quindi intanto ti auguriamo anche con molto anticipo un buon Natale e anche un buon anno, e confidiamo appunto che sia che la realtà appunto di Noi Vicenza possa magari il prossimo anno, tu ci indicherai magari qualche realtà, sì, diciamo, sì, dei, sì, tuoi oratori, così possiamo sentire appunto dalla voce appunto dei responsabili, di coloro appunto che fanno servizio al bar, se c'è all'interno del circolo, o fanno servizio nella sala giochi, o insomma in qualche maniera animano, diciamo, l'ambiente oratoriale, la realtà appunto degli oratori di Vicenza. Quindi tu ci dai darai la possibilità, sì, attraverso, sì, appunto, i tuoi contatti, di fornirci appunto quattro realtà vicentine che interverranno e diventeranno un po' protagoniste di questa trasmissione settimanale. È vero, certo, Don Matteo? Sì, sì, sì, confermato. Ho già sto contattandoli appunto molto per avere la loro risposta, poi vi faccio avere anche via mail tutti i riferimenti. Perfetto, allora Don Matteo, intanto grazie mille, grazie di questo contatto che abbiamo avuto, ti auguriamo quindi tanto buon lavoro e per la tua realtà di Noi Vicenza di continuare ad essere quel, diciamo, come lo descrivevi prima appunto, un recettore per tutti quei ragazzi che si fermano, diciamo, sul cortile, che vogliono affacciarsi di fronte a una bella realtà e grazie, diciamo, al lavoro che voi state facendo di entrare in questi ambienti e trovare il modo di essere protagonisti positivi per tutta la comunità all'interno della parrocchia. Questo è l'augurio che ti facciamo. Grazie. E ti ringraziamo tanto. Allora, Don Matteo, buon lavoro, grazie ancora. Grazie anche a voi, buon lavoro. Ciao, Don Matteo. Ciao. E noi, appunto, adesso siamo purtroppo agli sgoccioli anche di questa ennesima puntata. Quando si parla appunto con piacere e con delle persone che riescono anche con la loro voce un po' a trasmettere la passione che ci mettono in questo servizio, il tempo scorre, il tempo vola praticamente. Quindi ringraziamo ancora la regia di Eddie Daici. Noi ci risentiamo sempre ogni sabato alle 14 e domenica alle 12.30. Se volete inviarci un'email, mandate a fuori di noi @ libero.it. E quindi, cosa dire, buon lavoro a tutti gli amici appunto che apriranno gli oratori in questa settimana, li apriranno appunto per le settimane future. Noi ci risentiamo sempre solo sui microfoni di Blu Radio Veneto per un'ennesima puntata la prossima settimana di Fuori di Noi. Ciao a tutti. Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.